c'è qualcuno? C'è tu canale 10? Sì, avanti. Roberto, Antonio, tu sei? Sì, ciao Roberto. Ti sto ascoltando con un'altra radio. Come mi ascolti con questa radio? 9.40, 9.5. Troppo alto di volume? No, va bene, va bene. Alleluia. Perfetto, l'ho avuto per altre cose. Tu sei un bel forte, cavolo. Lo so che sono forte. Sempre. Un accento, no, vabbè, 54 sono sempre di importante. No, questo sarà una ventina, penso, non lo so. No, 50, non è che 150, sono riuscito a farlo salire, perché adesso sono 50 in metro di fronte a Benacce, poi me ne da 100 quando scalo, massimo 120, non lo salgo di più, se no cazzo sono salto. Ma che radio è questa? 140. È il microfono? In Salerta, il CM40. CM40? Eia. Non lo conosco, chi lo fa? La Salerta lo fa, io lo faccio. C'è Salerta Ecomaster, Salerta l'altro modello, poi c'è un 4-5 modelli ne ha fatto. È un bel amplificato, perché sento, c'è la televisione accesa vicino. Perché sento televisore, ce l'ho accesa. E infatti sembra che ci sia un bel di gente in casa, amplifica parecchio quel microfono. Comunque non è una porcheria questa radio, dai, in AM, dovrebbe, è nata per altre cose, funziona, si sente, dai. Perché ho voglia che si sente. Ha voglia, sente benissimo. Non era molto che non entravo qua, molte volte accendevo ma non c'è mai nessuno, infatti te c'è a vedere, ho fatto chiamata adesso, le te c'è a vedere se c'è qualcuno, ha risposto tu, ma tutta la greffa, la compagnia ormai poco frequentato questo canale. La verità non te lo so dire, anche perché io più che altro vado in TMR, capito? Sul canale 7, quindi tutti i giorni. Mi diverto di 27, poco e nulla, stavo accendendo. Scusami un attimo il telefono, Antonella, scusa. Antonella, buonasera. Buonasera, signor Marino. Per il fatto, come è questo bel segnale, ultimo? Perché adesso funziona tutto bene. Come sta arrivando a casa tua? 9.22, 9.23 sta arrivando. Va bene, già va bene allora. Dobbiamo sempre andare a bere quella birra famosa, mi ricorda te, cazzo. Queste mattine si viene a buttare la plastica. No, questi giorni sono in malattia, oh. Antonio, sono in malattia, ho problemi alla schiena e mi sono messo un po' in malattia, faccio un po' di punture. Bene, dammi un controllo, fammi una cortesia. 9.15, quasi 9.20, radio 5. E anche sono da voi, lo sai. C'ho dolore alla spalla, la cervicale, cioè, allucinante. Ho dovuto comprarmi quelle che fece di pastiglie gommose che hanno pubblicizzato. Ho visto che già funzionano. Capito? È un casino che la cervicale, mamma mia, cazzo, ti fa col collo duro come la palla, cazzo, manco col seghetto lo tagli e poi ti dà problemi, c'è una forma del sangue pure, non so, adesso c'ho un mal, fa male dietro, il costato, e un dolore liscio e basta, è come l'ho caduto un po' di tempo fa, capito? Che poi sono andato al pronto soccorso. Me l'avevo fatto all'inizio due settimane fa perché non ce la facevo più da allora. L'inizione. La febbre mi hanno dato. Sono entrato alle 10 e mezzanotte e adesso sono uscito a mezzogiorno di domani mattina. Cioè. La vecchiaia, sei vecchio Antonio, sei vecchio, non c'è nulla da fare. La signora come sta? Ma già sta uscendo la mattina, mi. Scendo la mattina va al bar, si beve il cappuccino e cose del genere e poi rientra a casa. A me non sta dentro a letto da 20 anni. E vabbè, interessante che esca e si muova, dai, meglio così, dai. Meglio che hai, tutto l'altro, lavorando stai, no? Antonella, lavorando stai, no? No, non posso più lavorare, aspetta un secondo il telefono. Prego, prego, vai. Antonello, attenzione Antonello.